Hey papi, ti chulo, my papi does it better. Tu sei hey, la figa fatta apposta per me, ma non mi chiedere se ci sei solo te. Voglio hey, scaffare questa notte con te, chulo. Io do il ciccio a te, tu la patata a me. Tu sei hey, la figa fatta apposta per me, chulo. Ma non mi chiedere se ci sei solo te. Voglio venirti sulle tette perché mi sembra chiaro che ho una gran voglia di trombarti, baby. Dalla prima volta che t'ho vista volevo schiaffarti. E non puoi lamentarti, perché ti porti, parti, l'appoggio e ti diverti. E quando ci mettiamo, che casino facciamo? Sappiamo che ci diamo perché è uno sport sano. Ma la vicina pensa che ci meniamo. Chiama il vigile e si cucca i versi che facciamo. Viene da prendersi nei modi più magici, oltre i limiti tantrici. Come l'olio fila tutto più bello, perché da retro entra Mr. Burdello. Burdello, yeah.